Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. I tremori della terra, come è accaduto solo pochi giorni fa in Emilia, ci ricordano periodicamente, spesso in modo drammatico, che viviamo in una terra sotto la cui superficie cova il fuoco. In ampie regioni dell'Italia, perforando il terreno, la temperatura sale più rapidamente di quanto accada nella maggior parte del resto del pianeta. E non a caso, le prime centrali geotermiche che sfruttano questo calore proveniente dal nucleo del pianeta sono nate proprio in Italia agli inizi del Novecento. Ci siamo chiesti tante volte qui a Radio 24 quanta energia elettrica avremmo potuto produrre se mai avessimo deciso di sfruttare seriamente questa risorsa che è rimasta a lungo ignorata. In pratica abbiamo le stesse centrali che avevamo negli anni 50. Ebbene, forse stasera riusciremo ad avere finalmente almeno una prima risposta. E questo accade all'indomani del convegno internazionale che si è da poco concluso a Napoli, Sviluppo sostenibile, questo è il titolo dell'energia geotermica in ambienti urbani, le aree vulcaniche del sud e del centro Italia. Il convegno era organizzato dall'Università Partenope e dall'NGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e da altri partner, tra cui il GIGA, il gruppo informale Geotermia e Ambiente, che si è costituito proprio per sensibilizzare le istituzioni, l'opinione pubblica sullo sviluppo ecologicamente sostenibile di questa antica fonte rinnovabile. Per parlarci di tutto questo c'è in linea con noi Fabio Roggiolani, che del GIGA è vicepresidente. Buonasera Roggiolani. Buonasera a voi. Allora Roggiolani, direi partiamo dai numeri, perché voi arrivate a una conclusione, ci dite quanta energia elettrica si potrebbe fare, alle condizioni che poi spiegheremo, in Italia con la geotermia, quindi col calore che viene prodotto di fatto dal nucleo della Terra per decadimento radioattivo e che per qualche miliardo di anni potrebbe essere utile, insomma. Direi sì, questa cosa che abbiamo sotto di noi e che molto spesso non valutiamo. Invece Ginori Conti all'inizio del Novecento ebbe l'idea, il principe. Noi siamo stati a lungo leader mondiali, l'unico problema che abbiamo è che siamo rimasti ancora a tecnologie, alla tecnologia dei primordi, e non l'abbiamo sviluppata, mentre se impariamo a svilupparla con le nuove... Soprattutto se la applichiamo, perché noi abbiamo aziende in Italia che usano già le nuove tecnologie ovunque tranne che nel nostro paese, ho questo sospetto, no? Purtroppo è la realtà. Non è che dobbiamo imparare a fare questa roba, sappiamo farla ma non la facciamo in Italia. Se la facessimo, quanta energia potremmo fare rispetto al nostro fabbisogno di energia elettrica? Un ragionamento prudenziale è il 10% del nostro fabbisogno. Ecco, questo 10% più o meno era la prima tranche del programma nucleare del precedente governo. Senta, di che tecnologie stiamo parlando? Ci sono varie opzioni, anche se in tutti i casi si tratta di fare un buco e andare a intercettare sostanzialmente una bolla di acqua calda, chiamiamola così, presente nel sottosuolo. Tecnologie a impatto zero, si chiamano tecnologie ciclo binario, che reiniettano tutto quello che si intercetta. Quindi sia che intercettiamo acqua, sia che intercettiamo vapore, sia che intercettiamo elementi inquinanti, perché nel sottosuolo si trovano anche elementi inquinanti. Certo. Questo sistema poi ha vari nomi in varie parti del globo, ha varie tecnologie, il più famoso è l'ORC, sì. Però è un ciclo che reinietta nello stesso campo geotermico, in un pozzo vicino, tutto quello che intercetta, in particolare tutta l'acqua, e quindi fa durare anche la risorsa molto di più, anche in maniera e soprattutto, ecco, questo dobbiamo dirlo con forza, perché molto spesso c'è un'opposizione a questo tipo di impianti che è anche dovuta al fatto che in passato sono state fatte le cose male e invece oggi è possibile fare una geotermia pulita, per quanto poi nessuna attività abbia impatto zero. Certamente, ma rispetto alle attività umane questo tipo di geotermia ha un impatto veramente ridicolo, anche perché ovviamente sostituisce altre energie che produciamo con metano, con gasolio o con nucleare o con carbone. L'impatto a livello locale è una semplice centrale, ma di dimensioni oggi molto piccola, non si vede neppure il fumo, gli abbattitori. Stiamo parlando tra l'altro prevalentemente di un tipo di geotermia abbastanza recente, la geotermia cosiddetta a media entalpia, cioè a temperatura media vuol dire, che però ha un vantaggio importante, si perfora molto meno, si va giù un chilometro magari al posto di 4-5, i costi sono completamente diversi, anche le tecnologie sono abbastanza diverse. Questo tipo di geotermia a media entalpia di cui non so se c'è neanche un esempio in Italia, forse c'è, ma è veramente poca roba. Su che area del territorio italiano si potrebbe utilizzare? Perché comunque poi non dappertutto si trovano neanche in Italia le condizioni ideali. Ma tutta la fascia tirrenica, le isole, tutta la zona dall'Appennino al Mar Tirreno è un'area geotermica di grande valore. Si passa da zone importantissime come tutta l'area napoletana, con i campi Flegrei, dove a 300-400 metri si può trovare la risorsa geotermica, senza creare nessun problema, sia chiaro. Cioè lì a Napoli è montata la polemica del risveglio del vulcano. Io di diozie ne ho sentite molte, però questa è una delle problematiche. Il problema è che l'hanno scritta in prima pagina di un grande quotidiano napoletano, e questa è la tragedia anche mentale. Il decreto sulle rinnovabili elettriche, che posto riserva alla geotermia? Lei è soddisfatto delle risorse che sono state messe lì? No, non sono soddisfatto, perché sono solo 35 megawatt l'anno per i prossimi 3 anni. Che è una cosa ridicola, possiamo dire ridicola? È ridicola, ma noi non pretendiamo troppo. Vorremmo semplicemente che la seconda parte del decreto, che riserva invece 40 megawatt l'anno ai rifacimenti, venissero semplicemente spostati nello sviluppo della geotermia a media entalpia. È il paradosso che danno 35 megawatt a tutti i nuovi operatori e 40 megawatt vengono riservati all'operatore monopolista che fino ad oggi ha fatto geotermia. Quindi la richiesta di Giga al governo che ci dia 75 megawatt per ogni anno a registro per fare la media entalpia, che servirebbe tranquillamente allo sviluppo del settore in Italia. Ecco, per chiarezza, siccome non è un mistero, l'operatore di cui lei sta parlando è Enel, che è l'unico che ha centrali geotermiche in Italia. E che purtroppo nei rifacimenti non vuole utilizzare il sistema a ciclo chiuso. I nostri due convegni hanno dimostrato che si può. Enel ha solo in America il ciclo chiuso, perché in Italia evidentemente si vergogna. Vabbè, grazie allora Roggiolani anche per quest'ultima precisazione. Grazie a lei, arrivederci. È tutto, a domani.